Allora, doppio rum, ci sei, doppio rum, brecco. Prova, tu no? Vieni qua per le scivole, sì. Prova. Ora. Avanti, chi è? Buonasera. Ciao, chi sei? Carlo. Ah, ciao Carlo, dammi un controllo questo, sto guardando in baracchino che mi hanno regalato. Se l'ho modificato, guarda un po' come tu scendo. Segnato. Ho capito. Radi. Perché c'è a metà, me lo spieghi? Come? Ecco, ti sento a metà, ti sento. A testi. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sono piccolica. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ora, punta. Ora. Sì, dimmi. Ora. Ora. Ah, come sei forte. Sto usando un migrante, sto usando. Se non mi ricordo, quando ho sentito una cosa del genere. La modulazione è abbastanza impastata, Antoni, te lo dico. Forse stai parlando vicino al mic, è come se io parlassi così, ora. Adesso guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso è meno forte, però è cupa. È piuttosto cupa, Antoni, abbastanza cupa. Vabbè, sai che si è modificato il corso, l'ABC, quindi a un certo punto sembra così, ma non lo è. Vabbè, c'ho la voce anch'io, tutto quanto mezza la svina, impastata e cose del genere. Anzi, ti dirò di più, Antonè, io sto utilizzando il 3009 che ha una tonalità di ricezione medio-alta e per sentire un effetto così cupo, perché è abbastanza cupa, sicuramente si è molto cupo con altri apparati, più di quanto ti ascolti io. Antonè, adesso devo staccare, devo fare una commissione veloce, forse rientro dopo. Va bene, non c'è problema, no. Già sono qua. Adesso attacco le... per 20 canali. Se state trovando la modifica che ho fatto, le 15 watt, già va bene. Mi è sembrato di sentire un break, nel caso lo mando avanti e vado in QRX per il momento. Marco. Carlo, che succede? Ho sentito arco e poi si è caduto. Sta facendo strano, sta facendo molto a metà, ma perché sta facendo al fumo, sta scendendo? Ascolta, per caso ti sta andando il protezione, l'apparato in trasmissione, se è così quella è la protezione dalle stazionarie, può darsi che come ha piovuto l'antenna abbia qualche residuo di umidità alla base, no? E che siano salite un po' le stazionarie, l'apparato va in autoprotezione, prova a mettere una potenza minima, perché a me l'ha fatto Antonè. Allora, il CRT 7009, il suo è l'8009 ma è uguale, e il 9009 hanno la protezione da stazionaria. Se poco a poco ci sono un po' di stazionaria, anche tipo 2, come vai a premere all'istante stacca e ti appare error o protection, una cosa del genere. Me sono accorto infatti, perché di solito questi apparati qua non le fanno una cosa del genere. Sto usando adesso questa parte che mi hanno regalato ieri, l'ho modificato, quello sai, non c'è bisogno di dato per prendere niente, quindi c'ha tutti i positivi da 9 a 9 a 10. Mi ho messo la vecchia manetta con il microfono amplificato quando F20. Cosa cazzo è? F16. Con la batteria. Quindi figurati. Già va bene. Antonio, è bianco per me, devo staccare. Forse a dopo, ciao. Sì, ok. D'accordo, a dopo. Breco, breco, breco. Tonello, ci sei? Hola, hola, hola, hola. Prova radio, prova radio. Sì, avanti. Sei Gianni, Carlo. Oh, Carlo, no, sono Franco. Ma mai sei così basso, Carlo? Guarda, stavo provando un'antenna e quindi... però mi da stazionare un po' altina e quindi mi mandava in protezione la radio. Ma prima ti ascoltavo fortissimo, mi arrivavi un segnalone. Adesso sei proprio... mi sembra segnale di 3-4, eh. Sì, e devo rimettere l'antenna come era prima allora, sì, perché ne ho messo un'altra, però mi dava stazionarie altissime e questa radio qua praticamente mi manda in protezione, esce SVRI in inglese alto e quindi niente, quell'antenna lì che mi hanno regalato non va bene, stazionarie, oppure devo cercare di abbassarle creando qualche choke, qualcosa del genere che me li abbassa, capito? Ma è roba che dovrò provare domani. Ma è stranissimo, c'è una cosa del genere, perché prima mi ricordo eri sui 9.20, mi ricordo 9.30 di segnale, ma non è più sul tetto l'antenna? No, non ce l'ho adesso sul tetto, perché ho cambiato indirizzo. Ah, va, quindi ero rimasto un po' indietro, dai. E quindi hai cambiato anche zona sopra, sicuramente, non sei più favorevole a me magari. Perché non abito più in quella casa dove ero prima, che lì avevo l'antenna sul tetto. Adesso sono più in basso, sempre via Prunizzetta, ho un'antenna messa sulla ringhiera, capito, per adesso. E poi quando inizia la bella stagione vedrò se posso metterla anche qua sul tetto. Beh, sicuramente, cioè perlomeno, se sono in gamba, la legge te lo permette, quindi se c'è il posto dove metterla senza creare problemi, non penso che che possano impedirtelo, dai. Certo, sempre meglio rimanere in buoni rapporti. Fammi contare come sto scendo, per favore. Sì, Alessio. Buonasera. Dammi un controllo, sto provando una bike che ho modificato. Faccio la modifica. Come sto scendo? La radio è un po' bruttina, un po' cupa, sembra rimbombante. Il segnale è basso sul 4. Il segnale è 4 addirittura. Sì, basso. E dove sei tu? Franco, sono viale Sacro Cuore. È strano che ne vedi che ti arrivo basso, comunque, no? Non è il tuo segnale, dai, non so dove sei, se sei a casa tua, boh. Ah, aspetta, tu sei abituato al chiedo, il discorso è diverso, aspetta un attimo, ti attacco il chiedo e ti faccio vedere la differenza, aspetta un attimo, no? Scappa. Ok, dai, Antone, Franco, ci sentiamo che vedo se riesco a spostare questa antenna un pochettino, se esce meglio, vabbè, Sacro Cuore, diciamo che prima ci arrivavo molto meglio, col segnalone là, certo, adesso mi sono, insomma, rimpicciolito, ho una buona radio, però l'antenna, se non la metti sul tetto non va bene. D'accordo, dai, che c'ho tutto all'aria qua, fili e quant'altro, e grazie per il controllo, Franco, piacere averti risentito, ero da tanto che non ti sentivo, dai, già qua sul 10 già sto entrando, ho ripreso, anche se sono in condizioni un po' precarie, però dai, già mi faccio sentire almeno in città. Ci sentiamo dopo che devo fare una chiamata. Carlo, dai, ti auguro buon anno, perché giustamente non ci siamo sentiti, a fine anno e fine dell'anno. Spero di sentirti, dai, con una bella antenna sul tetto, se no pazienza, ci arrangiamo lo stesso. Antonello, ci sei? Sì, sto usando l'altro apparecchio adesso, in questo momento. Aspetta un attimo che... aspetta l'altro, guarda un po' com'è. Adesso va meglio, il segnale è aumentato, sei sul 7, La radio è più forte, però c'è un po' di eco, ma lo abbassi un po', però nettamente migliore. Ah, vabbè, ci sono problemi, aspetta. Se ti metto nell'EMS 200 dovrebbe risultare quanto l'altro, addirittura solo l'altro, come segnale, perché da meno watt, quindi in AM naturalmente, poi in FM di più. Aspetta un attimo, ti attacco l'EMS 200. Ah, sono qua. Ciao Franco. Oh carissimo, come va? Auguro anche a te. Grazie Fra, auguro anche a te. E per noi è stato un po' più triste che è mancato il fratello di mamma, che era messo male. Mi dispiace, guarda, sono dogliato, però se come dici tu sarà messo male, insomma, è brutto dirlo, ma a volte io parlo per me, preferi andare via piuttosto che soffrire. Un po' patologia polmonare, grande fumatore da 18 anni, non ha mai smesso e secondo me ha contribuito molto. Va bene, ho sentito Carlo che stava sistemando l'antenna, che la deve spostare. E Antonello che la sta combinando. Adesso esce meglio, prima era cupo. Sì, sì, infatti ha migliorato tantissimo, la radio più forte, amplificata, prima era tutta che borbottava, il segnale è basso, poi qui vabbè io sono agganciato. Era, comunque era bassissimo, non era il suo segnale. Adesso deve provare l'MS 200, vediamo se migliora ancora. Purché lo utilizzi con i watt bassi, se vuoi usare il linearetto deve mettere mezzo watt di apparato lineare e ne ottieni, a me me ne dava 9, perché si mangia tutta la radio, più alzi la potenza di quel LMS 200 più si mangia la radio. Forse il finale o è vetusto o bisogna tarare qualcosa o il finale non è originale, chi lo sa. Io questo l'altro giorno con un amico l'abbiamo un po' centrato e che me l'ha riportato ai watt originali e io invece l'avevo abbassato, quindi sicuramente mi sta mangiando un po' di radio. Vedi un po', dammi conferma. Sì, Franco, è splendida la tua radio. Per quanto riguarda una delle migliori modulazioni, esente da timbriche strane, è proprio fedele, è come se fossi in verticale, capito? Grazie a quel microfono là, che te lo devi tenere caro e non lo dare mai quello. Confermo. Ecco anche Gianni. Sì. No, siccome un po' mi accorgo che sta sparando di più come watt, quindi sicuramente lui me li ha di nuovo aumentati, ma ci metto poco. Cofano lo riabbasso come era prima, però se non c'è bisogno lo lascio così. Qualche watt in più fa sempre bene. Avanti Gianni. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda un po' come sto scendo. No, questo è più basso di nuovo il segnale, come la prima volta, un segnale di 4, è un po' bassino, la radio è bassa lo stesso. Questo è l'elemento del 100, cosa vuoi ti dica io? Boh, non so cosa dirti. 5 watt c'ho l'importante e la modulazione scende a 3. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, sì, c'hai un po' di picchi negativi, forse non ti basta l'alimentazione, non lo so. Ripeto, era meglio l'altro, più forte sia il segnale che la radio. Vediamo un po', Marco, confermi? Si mangia un po' la radio. Antone, hai provato quel trucchetto là? Cioè dargli la potenza minima e pilotando il lineare con il mezzo watt della potenza minima. Qua il risultato era splendido, ti riacquista tutta la modulazione, in più conta Franco che il mic è originale e quindi esce quasi come un omologato quell'apparato, bene andando. Capito Antonè? E in più il linearetto mio gli aumentava ulteriormente la modulazione perché il 203 ha quella caratteristica, te l'aumenta poco poco ma te l'aumenta. Vai Antonè? No, sto uscendo senza lineare, hai capito? Adesso sono a potenza media, sono 2,5 watt, quasi 3. Ma io ti ho chiesto, vuoi provare quel trucchetto? Potenza minima più linea retto, vedrai che migliora la modulazione, molto. Vabbè, già lo vedo un pochettino domani adesso, perché è stata una cosa un po' strana, la verità, Adesso domani me lo studio un pochettino e vediamo un pochettino. Allora, hai 5 watt. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 watt di potenza, però c'è uno di 5 stazionali, naturalmente devi ricordare anche quello, C'ho problemi stazionali, quindi mi fa ritorno e rompe le palle, più che altro, capito? Antonè, per curiosità, metti il mezzo watt, vai al minimo un attimo. Eia. Mezzo watt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ma è logico, se metto mezzo watt, la stazione esce 2 a 0. Avete notato, ciao anche a Gianni il profeta, vai lì proprio tu il profeta. Buonasera a tutti, Antonello, Franco e Marco, vabbè dai, non so cosa stia sperimentando Antonello, è sempre con le mani in pasta, dai prova questo mezzo, dai. Eia, adesso sono con mezzo watt. Naturalmente sono 1-1, il discorso è quello. Adesso io salgo a medio e ho 2 watt e mezzo e ci sei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso sono il massimo dei watt, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, con la media e bassa potenza i picchi sono positivi. Come metti invece ai 5 watt, i picchi diventano negativi. Quindi o hai problemi di corrente, di alimentazione, No, c'è problemi di massa di stazionaria. Hai capito? Me lo fa anche con l'altro apparecchio, me lo fa. Tale, anche con chi me lo fa, non solo l'altro. Quindi... c'è problemi di massa, capito? Neanche salgo sopra, salgo appena il palo è asciutto, pulisco il palo con la carta vetrata, dopodiché mi piazzo nuovo l'antenna e tu vedrai che esco bene. Ma perché ripeto, questo non è il tuo segnale in cui ti ascoltavo sempre. Comunque auguroni anche a Gianni. Ricambiati fra, ultimamente in questi giorni siamo un po' trisciatrici, fendevo, ma com'hai, per stare in tema di acqua hanno rinviato la chiusura all'8 gennaio, caso del Coghinas 2, caso non si rimuo più, Siamo persi, con quel fatto mi sta facendo il muschio anche sotto le ascelle a me, mio Marco. Ma già stavi parlando di quella chiusura, di nuovo una chiusura del coso dell'acqua, vuol dire che ci laveremo il QSO con l'acqua in bottiglia? Sì, c'era una chiusura che era preventivata per domani e poi l'hanno spostata per l'8. Vabbè, un macello. Antonè, comunque non ti fare paranoie più di tanto. Sì, siamo... quello l'ho notato anch'io, dei picchi negativi. Allora, con la potenza massima, l'amperometro mi andava un po' in negativo. Allora ho attaccato il wattmetro Daiwa, quello un po' pelino più serio, e mi dà picchi negativi soprattutto fischiando in potenza alta, sì. Antonè, ti ho detto quel trucchetto, io facevo così. Mezzo watt, lineare ottenevo 9 watt, però con una bella modulazione, limitatamente all'apparato che comunque ha 40 anni suonati. Adesso col cavo si nota la differenza, sì. Quasi 9, quasi 9-10. Me la sono accorto, infatti. Però cazzo mi sono pigliato la scorsa la pelle, cazzo. Non aggiungo più perché, cazzo. Sto fare 1-4. 1 e 4 di stazionaria, Se ho preso la scossa deve essere la labu. Non lo so. E la potenza quanto sia adesso col K? Col K sono a 5 watt. Com'è possibile che il K mi arrivi a 5 watt? Aspetta un attimo che lo regolo. Adesso, tutti tondi. Beh, 50 è già più il tuo segnale, perché con 5 watt poc'anzi mi arrivavi molto, molto basso con gli altri apparecchi. Avanti Gianni. Eh beh, da 5 a 50. Vedi tu, sì, con l'altro, col primo che ho sentito era... Antonio, eri veramente inascoltabile, era bu bu bu bu bu bu su compagnia onda, adesso è completamente un'altra parrocchia. Eh beh, adesso sono con 50, non lo so io, più di tu, cazzo no, è sceso, c'è qualcosa che non va, aspetta, adesso è salito, più a 50. C'è qualcosa che va dall'antenna là di sopra, a parte che mi piglio la corrente, non ho capito la roba, il cazzo, la verità, c'è invece qualche limitatore che perde. Dammi un segnale tu col K, è affidabile, sì, come strumento? Sì, fai un passaggio, guarda questo, 1, 2, 3, prova. 6, 9, 20. Guarda questo, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. 9, 5. Ok, grazie. E niente, non c'è problema. Avanti, Marco. K, sì. Lo smitter del K era bello. Almeno quello. Tutto lì. Che altro dire? Mi devo assentare per aggiungere un pizzico di acqua alla lavatrice, appena appena. E rilancio il profeta, dai, mi assento un attimo. Ok. Acqua, lavatrici, oi. Allora Fra, com'è? Tutto a posto? Qua sei ferio o oggi eri di turno presto? Aspetta, scusa un attimo, no, ho lavorato. Ah, ok. Quindi non sei in ferie? Andiamo un po'. 50, tondi tondi. Però cazzo è strano, cazzo. Perché a me mi segna cazzo un capito? Io faccio metto perché uno cazzo? 10. Non può essere cazzo. Levato mi segna 50. Cioè c'è qualcosa che ho toccato, evidentemente se non me ne sono accorto. Ah, eccolo qua, ecco. LC, PWR ho toccato. E che roba è? Lo vado a mangiare. Questo è come il discorso mio, mi certe volte con questo 3009 misuro le stazioni, se è misuratore speciale però, poi mi dimentico di mettere di nuovo signal RF, tipo premo la portante e non sale, ho detto ma no, il bruciale finale bruciato, invece no, è praticamente in modalità Rosmet, lo smitter, capito, e non sale. Ma io ho qualche problemino qua, perché a volte lo smitter non sale. Magari c'era un po' d'acqua residua nelle antenne, boh, come ha piovuto, perché a Carlo gli stava dando problemini, a Antonello problemini, a me ovviamente no, ma la mia è una super antenna super sigillata. No, ma lo fa a volte, quindi adesso, secondo me c'è qualche problema, qualche PL, quindi adesso devo di nuovo accordare, hola hola. Ehi, vabbè, se sotto 2, sotto 1,5 è trascurabile, non lo conto nemmeno quello. Io oggi sono eccezionalmente con 4 watt dell'apparato e antenna diretta, non c'ho niente né strumenti né nulla, 4 watt nudi e crudi. Oh, adesso me ne sta dando quasi 10, ma sono i suoi, proprio quelli dell'apparecchio. Tu, Fra, l'antenna ce l'avevi dove? Su un balcone, ricordamelo. Sì, davanti alla finestra, praticamente, è attaccata alla staffa per stendere, dai. E la punta arriva alla grondaia, sotto la grondaia, dai. Io, certo, se avessi potuto metterla sul tetto sarebbe stato in non plus ultra. Così è. Oh già, e tu la tua, dopo il tondino fatto l'antenna, tutto bene sta andando, sì. A voglia. È proprio dritta, proprio perfetta. È proprio. Sì, da quando gli ho fatto quel lavoro lì non si è mossa di un millimetro. Vabbè, adesso viene un po' male piegare il tondino che ho messo. Sì, comunque a tornare a quel discorso delle Venom, no? Allora, una volta la Venom, che sia mezz'onda, che sia 5 ottavi, questo pre-Covid, ti parlo del 2015, te la spedivano dall'Inghilterra a 50 euro spedita, quando l'Inghilterra ancora era pre-separazione, come si chiama, Brexit, quando era nell'Unione Europea. 50 euro spedita, che ti arrivava a casa. Poi qualcuno ha iniziato a portarle in Italia, magari da pagare i 47, 50, intorno ai 50 euro, più però la spedizione dall'Italia. Ancora è ragionevole. Ma adesso ho visto negozi che la vendono 60, 65, 70 euro, più la spedizione dall'Italia. Poi ho visto anche una follia in Germania che o è un refuso o è un errore, o sono matti loro. La Venom in Germania, in un sito X della Germania, 120 euro. Cioè, questi sono scemi. A quel prezzo mi dispiace, ma non li vale più. Parlo dell'Italia, parlo dei 65-70 euro, perché per pari cifra prendi direttamente una Sirio GPE o GPS, tipo la mia, dove la bobina è molto più grossa, regge più watt, perché poi della Venom dichiarano 1000 watt, buffami dolci, no, non sono veri, perché la bobinetta che c'è poi all'interno nella base, ti avevo detto che avevi visto la foto, il filettino sarà a malapena largo un millimetro, proprio invece nella cosa sarà 2,5-3 nella Energy alias Sirio. Vai Gianni. Sì, già me lo ricordo che il prezzo era intorno alle 50 per spedizione prima, mi ricordo così a grandi linee. Cosa che ti dica, io ho risolto per il momento, non sono più che a posto, quindi la Venom può rimanere nei loro magazzini, non me la futi nulla. Avanti Fra. Sto guardando i prezzi, ma insomma ormai è arrivata quasi, allora 59 più altre 15 di spedizione, mi sembra, come dici tu. Sì, non c'è più. Oh, per tutti quelli che sento io non escono male come segnale. Il problema è la durata dell'antenna, secondo me. Poi chi lo sa, io a questa non gli avrei dato 3 anni, alla mia, non gli avrei dato più di 3 anni di vita. Però la devi caricare poco di watt, perché quel filettino dentro è veramente ridicolo, cioè nemmeno le barre mobili hanno una bobina così sottile. Non so se ti avevo mandato la famosa foto, no? C'è una specie di rocchetto o vetronite o cos'è, c'è un filettino a volte intorno, un filettino che avrà proprio il diametro di un millimetro, non un millimetro quadro, un millimetro di diametro per quel filettino. E loro la dichiarano 1000 watt, sì, come no? Oh yeah. Vabbè. Poi c'è quella con i radialini, quella senza radialini, ci sono varie. Varianti. Poi c'è quella giornata, mi sembra, 2025, che è stata rinforzata, quanto leggo, No, quello non lo sapevo, devo documentarmi. Allora, il sito Amma Radio Shop, credo che sia quello, Amma Radio Shop, vende la Venom rimarcata ecoantenne. Allora, l'ecoantenne ha chiuso anni fa e faceva buoni prodotti all'epoca, cioè 15-20 anni fa. Quindi a quanto ho capito, proprio questa amara di Shop ha rilevato il marchio, però lo sta mettendo su prodotti più infimi di qualità, capito? La Venom inglese alias Silver Road gli mette l'adesivo ai contenne, ma in realtà non è la storica e leggendaria ai contenne, capito? Va bene, detto ciò mi devo assentare di nuovo. Bianco, per me vai Pomponio. E un attimino, sto arrivando subito, due minuti. Siamo qua. La pizza è molto leggera, semplice da montare, antenna con il miglior rapporto qualità-prezzo, installabile dovunque, praticamente prezza rata solo da fissare. L'altro giorno ho letto che è stata modificata nelle giunture, e comunque voci tu, ecco antenne Venom 5/8, non lo so, comunque che tre file hai messo, che tondino hai messo Gianni? No, c'era praticamente una boomerang, il tondino che andava montato sopra, il radiale di punta che era troppo sottile ed era soggetto a piegature molto frequenti. Allora mi sono rotto le palle, sono andato da Marcello, il viale produttore, ci ho beccato un tondino di alluminio pieno del diametro di 8-9 mm, gli ho fatto l'accrocchio, l'ho installato, adesso è perfetta, super dritta, e quindi adesso va molto molto meglio. 8 mm inizia già a essere robusto, perché io quando facevo le serramentite le usavo per fare i perni delle finestre, no? I perni di chiusura, ed erano in alluminio pieno, però erano da 6 mm, questo da 8, insomma è una bella, hai trovato bene, dai, una bella ricerca hai fatto. Eia, sì, adesso mi ricordo, se da 8 o da 9, praticamente è identico a quello che c'è alla base, tra l'altro me l'ha anche regalato, quindi doppio colpo di fortuna. Quindi meglio così, come l'hai attaccato? No, gli ho fatto, ho preso un tubo d'alluminio molto più largo, l'ho segato praticamente piano piano con delle fasce di stringitubo, l'ho ristretto, gli ho fatto un innesto, gli ho messo 10 tondino alla base e 10 tondino in punta, capito? Poi l'ho stretto con delle fascette e tu sei isolato, sembra che regga, dai. No, sì, dai, quando mai no, insomma, 9 mm, 10 mm, come fai a piegarlo? No, comunque sta facendo bene, la taratura è perfetta. Sì, sì, va bene, non mi posso lamentare. Come mi ascolti di radio? Sempre fortissimo, come sempre. Bene, Mela, non è satura distorta, no? No, super amplificata, alla grande, no, come si dice, puntella, non toccare mai niente. No, ma infatti non tocco più nulla. Dai, faccio 5 minuti di bianco e devo fare una cosa veloce. Dai, vediamo un po' se rientra Pomponio con queste prove. Io rimango anch'io in ascolto, dai, sono qua. Sono qui, dimmi tutto. Mi sto abbandonando, non ti preoccupare. Adesso va bene, dai. Vabbè, sta usando un signor Apparecchio, cos'è? 140 o 440, cos'è? Il 140 questo è. Sono dei carri armati, sono questi, sono, non hanno mai fine. Vabbè, adesso vediamo un po', secondo com'è, boh. Mi prenderò un altro, cioè, un 680, mi prenderò e ho finito. C'è una paglietta MS200 di qua, vabbè, non è mio, è di Marco, quindi poi c'ho mi hanno regalato un Midland, quello 40 canali, l'ho modificato stasera, e poi c'ho un altro apparecchio, con l'Ecco, 281 canali, quindi a voglia ne ho di roba più, 5 portate di VU, ce la faccio a riempirmi di apparecchi. Ma col K secondo me ce n'è per tutti i gusti, c'hai tutte le frequenze che vuoi, esce bene, c'è un bel segnale, c'hai un po' di un bel vantaggio, meglio di così. Ah beh, quello sì, la verità è quello sì, un passo di giro, parlo con la Russia tutti i giorni, quindi ho detto, mi sembra di essere, cosa ti posso dire, al telefono con loro. E su quelle frequenze? Accidenti, le frequenze ci sono, in pratica è sul canale, allora sono, c'è 27200, hai capito? In FM, vai lì e li ascolti tutti i giorni e ci parli pure. Forse tu con dalle tue parti, io qua a volte li sento, dalla Russia, non so cos'è, Polonia, però li sento sui canali bassi, praticamente verso il 27 sotto però. 26, 27 sotto, lì li sento, però ogni tanto, non sempre. Ma no, io li sento nel canale normale, la verità, quindi mi diverso e comincio ora ora Coca-Cola, ora ora Coca-Cola, ma la tocca il video in 27 non sono altro, figurati tu. E tu c'hai una posizione magari buona, l'antenna ce l'hai libera, io sono qua, come si dice, quasi sotto terra. Ah, vabbè, quello è un discorso diverso, quindi... Per quello che non li sento, per sentirli io vuol dire che c'è un bel po' di propagazione. Tutti i giorni c'è una propagazione io, ma tutti i giorni non è che c'è sia propagazione. Io ho proprio il punto esatto per parlare con loro dalle 2 fino alle 5. Dopo le 5, la propagazione finisce. L'antenna ce l'hai sul tetto? Sì, è sul tetto l'antenna, sì. Bravo, sì. A quanti metri? Che piano è? Quattro piano rialzato rimane, ma è basso, non sono alto, se avessi messo 6 metri, eccetera, eccetera, guai. Cosa ti posso dire? Poi, un altro coso, c'è l'antenna della VHF, VEU, è la proprio di una terra. Messa a 1,20 m dal tetto, ed è un metro più giù di dove c'è l'antenna della VEU, e io sento la corsica in francese, in PMR ci parlo pure, non so altro. Sono l'unico a arrivare, l'unico penso di essere, perché non mi hanno detto nessun'altra cosa, dice non ci arriva nessuno, dice come te mi ha detto, quindi figurati tu. E vuol dire che sei aperto, dai, non hai problemi, io qua come fai? Non vado da nessuna parte qua, però mi accontento, dai, per adesso, finché un domani chissà, se Dio vorrà, la metterò sul tetto anch'io. Vabbè, piano piano ci fanno le cose, ci va quello. Ecco, sei quasi 9,20, sì. Sono con il credo, è una cosa diversa. E poi il microfono è normale, da palmo? Sì, normale, sì. Figurati, se gli metti un MC60 è una bomba. Io lo sai anche tu, la voglia. Non hai i microfoni amplificati da attaccargli? Sì, c'ho il coso, il Salenza, c'ho l'altro Salenza, e ne ho microfoni. Io ho fatto la modifica, ma adesso è da un bel che non lo sto più usando, capito? Avevo abbandonato un pochettino tutto, e mi stavo occupando di altre cose, capito? Sì, anch'io un po' così, Accendevoci ogni tanto, ma giusto per caricare un po' i condensatori. Basta, però spesso e volentieri non c'è mai nessuno. Appunto per quello. A volte c'è un bel di gente, cazzo. A volte non c'è nessuno. Vedi, l'altro giorno in PMR era pieno di CB era, cazzo. Di alghero. A volte non c'è mai con cane. Alghero arrivo a malapena io, a malapena proprio. Agganciato pure. Sto dicendo che era pieno l'altro giorno, pieno di CB. E io tu cazzo, tutti i trasferiti qua si sono arrivati a un certo punto. Sto dicendo, era pieno di CB l'altro giorno. Tutti in alghero. Tutti quelli che sono, cioè la metà più che altro di quelli che sono lì in quel sito, capito? No, poi sento, vabbè, sento quelli di Sassari, i radioamatori di Sassari, su quella frequenza che tu conoscerai sicuramente. No, non ci vado io di là. 145, 525, no, ho avuto. Ho avuto esperienza l'altro giorno e quindi non ci vado più. Questo è una persona si vuole trovare un apparecchio, se non è che parlare non sono l'altro, mi è stato rifiutato, capito? Quindi a un certo punto cancellati, boh, basta. Se io sento a lui se dovessi sentire a lui che chiede un controllo o cosa del genere, cancello anche a lui. Il 27 non lo faccio manco parlare, perché cazzo lui qui non ci può parlare. Lui è l'allenatore, parla come l'allenatore. Io sono il 27 e parlo come il 27. Basta, il discorso è quello. La questione è pari. Non hai capito, hanno fatto valere i loro diritti, dai. Sì, bisogna farli così a un certo punto, cioè se rispondono così bisogna farli così. Tu vuoi entrare in 27? Beh, se vuoi entrare in 27, non ti faccio entrare, non parli e basta, il discorso è quello. Se vuoi entrare in 27, ti rimane il 26, c'hai tutto di altre frequenze, io non entro nelle frequenze tue e siamo pari, il discorso è quello. Ma quindi gente di Sassari, eppure siamo tutti in gamba, sembrano. È quello che ti sto dicendo, cioè questo solamente un favore, non avrebbe perso un altro, cioè non stavo non volevo parlare, ho chiesto solamente, guarda, schiaccio portante, volevo trovare un apparecchio che mi è stato dato, gli ho detto, neanche parlo, gli ho detto, no, ho detto di no, allora, c'è medicina, e allora, facciamo così, detto. Avanti, quando parlerò nel 27 gli ho detto, ti farò anche a te, ma questa è l'unica cosa, che mi chiederò il controllo, non lo dai il controllo, assolutamente, perché se vuoi il controllo, se lo prendi il caso in quello che non me lo frega niente, ma il 27 non te lo do. Vabbè, peggio per loro, dai, contenti loro, come si dice. Riecchime. Bisogna essere pari, scusa, a un certo punto non ti rispondi così. Cosa ti devo dire? Cazzo, scusa, a un certo punto. Non è cosa devo dire, cosa mi devo dire io. Cosa devo dire a lui a un certo punto? Quindi basta. Il discorso è quello. Non mi vuole, cioè non volevo neanche parlare. Schiacciavo solamente portante e basta. Mi dicevi? E allora ho detto sì. Basta. A un certo punto si prende anche a parlare. E invece niente. A un certo punto faccio anche così. Tale uguale. Come lui entra al 27 perché gli serve un controllo per gli apparecchi sulla 27 e cosa del genere. Lui non parla. Mi dispiace ma non parla perché li metto a portante. Il discorso è quello. Scusate, ho avuto un problema tecnico. Vai, vai. No, non riuscivo a togliere il talkback. No, chiedo a Franco, là, che è anche Antonello e anche a Gianni se c'è. Orecchiate questa modulazione, questo è il mic originale di un apparato. Continuate a parlare, adesso metto un altro mic per capire se ne vale la pena oppure no. Tutto lì. Va, non c'è problema. Correcco. Registrato. Vabbè, Marco lì. Sparito, Abbiamo anche un brecco, eh. Avanti, fallo entrare, Se mi sente, perché sono a massa potenza. Avanti, break. Salutone a tutti, Luca da questa parte. Buonasera. Luca da dove? Ciao Luca, buonasera. Luca, stazione Floppy, via fine di Via d'Italia. Per me sei un po' negativo, ma per colpa mia, perché la mia antenna è sulla finestra. Sicuramente ti sente meglio Antonello, Io, ciao Luca, buonasera, ben sentito. Saluti a tutti, sì, tu hai l'antenna sulla finestra, io ce l'ho sui fili da stendere e quindi non siamo messi bene tutti e due. Non ho capito, Antonio, dove ce l'ha l'antenna lui? C'è l'antenna dentro la fila in pratica, adesso fa un po', appena cambia tempo, ce la vedo sopra il tetto. Allora vedrai che già lo ascolterò meglio sicuramente anch'io. vediamo un po' se Marco ha piazzato il mic. Vabbè, quello sì. Marco! Eccomi, ero su un altro canale. Allora, questo microfono è regolato come il 3009, identico come lo usavo sul 3009, con lo slider a manetta. Su questo apparato vale la pena o tanto volevo usare il mic originale, interrogativo? Ma io ti sento benissimo, per me un'ottima radio, 5 tranquillamente, forse leggermente più squillante, più con qualche acuto in più rispetto alla prima, però è passato troppo tempo da un cambio all'altro. Eia, il profeta c'è ancora, cosa ne dice? Gianni ha salutato, mi sa, non so cosa doveva fare, un impegno. Allora facciamo la prova anche con Luca. Buonasera Luca, poi ci dirai se la famosa antenna è arrivata. A meno che non la porti la Befana domani stesso, amico, a bordo della scopa. Anzi, a bordo dell'antenna arriva la Befana. Vai Luca, aspetta che... Guarda, ti faccio questo passaggio qua, poi riattacco all'istante l'altro mic. E quindi avanti Luca. Aspetta, sto preparando la ghiera qua. Avanti Luca. E K sul sito della UPS mi dà consegna il 9 e quindi venerdì prossimo. Ecco qua, mic originale. Poc'anzi avevo il mic quello preamplificato a metà. Alla fine ne vale la pena, fra poi anche Luca, così come più bassa, meno bassa, prima Luca. Per me è perfetta anche così, uguale, ma magari siamo in condizioni favorevoli, non lo so. Per me è meglio, era meglio l'altra, quella amplificata, è leggermente più forte e più squillante. Ok. No, perché ho notato una cosa, Franco, mentre su un 3009 quel KPO da palmo spinge di più, vabbè, 3009 conta che è il 3009, no? Su questi apparati è come che avessero proprio un limitatore. Io avevo già fatto le migliorie in AM tramite menu di servizio, però più di tanto non pompa, a meno che non lo metta a manetta e vedere se qualcosina in più la dà. Però io con questo devo parlare vicino, no? Sto parlando di tre quarti al mic, però vicino. Al limite, ultima prova, già mi guarda quando vedo che non funge tanto, mi giro le scatole. Poi questo di comodo ha che i tasti dei canali up down, io sto sempre carellando, no? Capito? E d'altronde la scansione, la funzionalità scan su questo apparato la ottieni tramite i tastini sopra, nemmeno da frontale, puoi usare solo i tastini del mic per mandarlo in scansione. Capo, vai Franco. E ti trova, se qualcuno trasmette, te lo becca subito? Beh, la scansione è lenta, diciamo saranno 1, 2, 3, 4 canali al secondo, però lo fa in continuo. Tu metti lo squelch, quando trova qualcuno che parla, che poi magari becca sempre robaccia di propagazione, allora si ferma lì. Quando il segnale smette, dopo un paio di secondi riparte. Ah, ho capito. A questo punto allora conviene più quelle chiavette tipo SDR, no? Con un piccolo cellulare c'hai pensato a controllo alla 27, se qualcuno entra ti lascia la traccia, capito? Hai capito Marco? Sì, sto rimettendo l'amplificato, proviamo a mettere la manetta, sempre che non faccia l'effetto pompa. Allora io sono a 30 cm come sul 3009, però il fatto che non vedo picchi, non vedo picchi di modulazione, cioè sì, si alza appena appena la lancetta, magari è pigro lo smitter, cioè, non mi rendo conto se sta pompando o no, capito? Vedi, valuta tu Franco, se non ne bogo tutto. No, è cosa che ci sono i picchi, da 9.10 vai a 9.20 abbondanti pure. Oh, allora è lo smitter che non è in tempo reale, va bene, buono così, guarda per esempio, così tutto il braccio lontano, così 30 centimetri. Vogliamo l'eco? Ma mettiamogli anche l'eco, vediamo com'è. 1, 2, 3, prova, leggero, no? Sì, non disturba, però si sente un po', quando la allontani si sente l'effetto stanza, capito? Ehi, Antonello è rientrato, aspettate che mi ascolto. Autoascolto appena. Vabbè, la timbrica è fedele. Vabbè, Antonello, vai avanti, vado a bere. Ehi, non c'è problema, tranquillo. Sto pegando i cosi, i documenti per andare a fare il cambio del medico, più che altro. quindi adesso guarda, ecco, voilà, che là un attimo di bianco per me. Allora, che c'è? Ti è entrato, non ho capito niente ancora, perché mi sono spostato 5 minuti. C'è Luca, e quindi ho sentito dell'antenna che te l'hanno in consegna tipo il 7 o quando era. Insomma, una telenovela sta diventando questa consegna, l'anima, proprio sudata. È il giorno che arriva qua, sentirete la musica perché chiamo la banda Canepa e le Majorette pure, perché sarà veramente un evento. Comunque da Amazon mi dice consegna il 5, tra il 5 e il 7, e invece andando sul sito della UPS Tracking mi dà in consegna venerdì 9. Ah, ho capito. Aspetta, ti faccio sentire. Ti ricordi quando mi ha chiamato ieri? Appa? Aspetta, 2 minuti e te lo faccio sentire. Ah, deve essere quello che ho utilizzato poc'anzi. Stavo dicendo un becco, se è quello. Vabbè, si vedrà. Ecco, l'ho tolto, no? Lo leviamo subito. Lo lasciamo a Antonello, il lecca lecca che gli piace. E io lo lecco, lo sai. Lecca lecca, lo sai, usavo una volta. E lo migliore è usare il lecca lecca. Faceva come il prete, non so l'altro. Aspetta, attacco un attimino l'antenna, 2 minuti. Così faccio la prova, anche se il microfono non è il suo, la verità. Dico l'apparecchio, prima di tutto, Il microfono di Giuseppe Leoncino, quindi non ho neanche messo la batteria, quindi a un certo punto, 2 minuti, lo aggancio e lo provo. Oh. Ma Giuseppe Leoncino lo sento sempre più di rado, cioè lui fa così, magari si piglia un apparecchio, una mezza antenna, mezza, entra un giorno e poi sta anni che non lo senti, poi lo stesso, entra un giorno e poi anni di silenzio. Oh. Vabbè, vuol dire che avrà altro da fare. Luca, riprendi. Comunque è strano, cioè no, strano no. Fammi anche, allora, l'oggetto era venduto su Amazon, però non spedito da Amazon, perché se no l'avresti già ricevuto. Vuol dire, sì, era venduto su Amazon, ma spedito da Corrieri Pierzi. Mi pare, cosa avevi detto una volta? Conrad era, conrad.de. Comrade, gli ho fatto anche una mail di protesta, ma mi hanno risposto che quando vendono attraverso Amazon devo seguire il tracking di Amazon. Non mi hanno cagato, comunque hanno spedito il 2, e in pratica erano chiusi, si hanno fatto le vacanze lunghe, perché come hanno riaperto hanno fatto la spedizione. Sì, comunque ricordami in totale il prezzo, quanto è stato, spedizione compresa, quanto? Aspetta che vado su Amazon e te lo dico con precisione. No, grosso modo, arrotondato lo zero finale, 60, 70, perché c'è il mic alto, vabbè, 1, 2, 3, prova, che bip da minchione. Franco, c'è ancora? Stiamo abbassando. Prova. Leggero, ecco, bello. Eccomi, allora l'antenna è 64, perché è 63,99, 64 più 10 di spedizione. Eia, dal questo fischio, eia. E quindi, alla fine, quei 5 euro in più, 5 euro in più, per eccesso mio, la piglia dell'Italia, vabbè, adesso fregatene, comunque sia, una volta che arrivo, che sono curioso anche di vedere, praticamente dovrebbe rendere tipo la Venom, una cosa del genere. Tipo questa che ho io pure, che non è un'antenna extra lusso, ecco. Avanti, chi vuole entrare? Ah, poi quella è l'unica che abbia visto, è di quelle nuovo tipo, dell'Albrecht, mi pare, che ha l'isolatore giallo. Cioè quei pezzi di plastica sia sopra che sotto la staffa, no, la base, anziché essere neri come nelle Venom, per distinguerli li hanno fatti di colore giallo, ecco. I radiali sono più lunghi, per fortuna, perché nella Venom c'è. Cioè, come fa una 5 ottavi a vedere radiali da 30 centimetri, due mozziconi? Non li vede nemmeno. Vabbè. Ecco, poi quando arriva controlliamo le stanze, la metto su in un attimo, perché poi pesa 1,5 kg. Il palo adesso è di quelli telescopici, no? Ed è tutto abbassato, per cui la piatto facile, la sollevo, metto in tira tre tiranti che ho messo per evitare che il vento si porti via tutto, e dovrei essere operativo. Se veramente arriva venerdì, sabato la collaudo. Buono. Va bene, vediamo chi è rimasto. Antonello sta operando, Franco non mi ricordo cosa ha detto, il profeta ha chiuso, chi c'è rimasto qua? Vabbè dai, pensa io che devo dare da mangiare alle gatte nel pomeriggio, queste poverette sono ancora senza mangiare, già sono belle grasse, queste rischiavano di fare, una faceva da porcetto a Natale e una da agnello, capito, la bacchetta, volevamo farle poverine. E bocca resa, perché alla fine è tutto pelo, anche se sono grasse, poi cosa vuoi che arrendano? A parte che sembra coniglio sicuramente. Queste a parte il pelo già sono diventate belle grassocce, altro che anche quella che era magretta in gioventù. Ho sentito Carlo, hai risolto? Sì Marco, grazie, scusate come sono entrato, perché poi avevo dovuto mollare tutto, era venuto mio figlio, quindi ho riattaccato l'altra antenna e a posto. Mi usciva la scritta SVR low, quindi l'SVR era troppo alto, mi andava, come hai detto tu, in protezione. Sì, esatto. Guarda, 7.900, poi il tuo 8.900 che è di forma identica al mio, 9.900 ce l'hanno, invece il 6.900 mi pare di ricordare che abbia lo smitter, il rosmetro, ma non ha la protezione automatica, invece ha solo la protezione per il sovravoltaggio e il sottovoltaggio, invece queste nostre hanno sia la protezione dall'SVR eccessivo e la protezione anche dal sottovoltaggio, voltaggio troppo alto o troppo basso, e proprio fa un bip, dovrebbe fare un bip che ricordi e appare tipo error o quello che hai detto tu, SVR SVR AI AIG dava, non lo alta, SVR alto, quindi ho cambiato, mi hanno regalato un'antenna della Sirio, quelle Sirio Thunder, mi ricordo che è una specie di antenna caricata nera, capito, si può usare anche per camper e così, ma messa nel terrazzino dovrò inventare qualcosa per abbassare l'SVR, o ci faccio un choke, capito, però ho bisogno di un cavo più lungo per realizzarlo.